per cui abbiamo ritenuto opportuno sospendere temporaneamente per verificare questo tipo di spostamento. Con dei sensori che sono stati messi a bordo e a terra abbiamo verificato che per adesso ci sono le condizioni per operare, seppur mantenendo un livello di attenzione al massimo. La nave si è spostata di quanto? Sono pochi centimetri per adesso e si suppone che sia dovuto all'aumento del moto ondoso. L'inclinazione è rimasta quella, sono dei momenti di flessione dello scafo, però che se fossero eccessivi potrebbero provocare lo scivolamento dalla scarpata. Più volte nel corso di questi giorni, ovviamente, l'attenzione sulla stabilità della nave, lo ricordo, sono 295 metri di nave per qualcosa come 17 piani, ecco, quindi stiamo parlando di qualcosa di davvero enorme, carico evidentemente di oltre 4.000 passeggeri e anche di un potenziale sull'ambiente molto molto pericoloso. Di questo sempre lunedì parla il ministro Corrado Clini. Si tratta di un gasolio denso che potrebbe da un lato compromettere i fondali e la vita della fauna, oltre che determinare un danno terribile alle coste. Il naufragio, un simbolo che va ben oltre quello che è il termine appunto marinaro. Il naufragio è al centro di molti dibattiti. Lunedì mattina, fin dall'inizio della settimana, Oscar Giannino lega questa vicenda a una situazione invece che ci portiamo dietro da settimane. Sentiamolo. La versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your. Buongiorno cari ascoltatori, abbiamo cominciato con un microfono impugnato che sicuramente ha fatto arrivare alle vostre orecchie un sussulto, mi scuso molto, ma naturalmente quando si tratta di cominciare una settimana come questa, questo lunedì 16 gennaio, c'è un po' di energia da parte mia. Mi dispiace considerare che il naufragio della Costa Concordia, che da due giorni riempie le nostre cronache, purtroppo, e senza voler fare accostamenti impropri, c'è qualche cosa di simile alla imperizia, all'inconsapevolezza e alla sottrazione di responsabilità che l'Europa e l'Italia nel nostro continente europeo sta vivendo da due anni a questa parte sul problema della tenuta dell'euro e dell'eccesso dei debiti pubblici. Sapete che venerdì è arrivato questo downgrading europeo verso quasi tutti i paesi, la Francia e l'Austria hanno perso la tripla A, noi abbiamo avuto due tacchi meno, siamo a BBB più. Solo la Germania e pochissimi altri sono stati risparmiati. Non mi è piaciuto complessivamente, come al solito sono il bastian contrario, ma non mi è piaciuto complessivamente il modo in cui ha reagito l'Europa e l'Italia. Non mi iscrivo al partito di quelli che dicono che è un complotto della finanza, dell'America, che le agenzie di rating sono uno scandalo, che gli stati sovrani non devono rendere conto della solvibilità del loro debito pubblico. Mi invito a fare due domande: è vero o non è vero che è saltata la trattativa greca per la compartecipazione privata alla percentuale di perdita dei titoli pubblici greci che bisogna decidere entro marzo e che il governo greco ha esplicitamente dichiarato che lo fisserà per legge la percentuale di perdita entro fino al 70%, anzi almeno del 70%, e che per effetto di tutto questo la Grecia è tale quale all'Argentina e quindi se finisce così esce dall'euro, si dà una dracma svalutata del 70 se non più per cento, e che questo fatto rende complessivamente più difficile la posizione delle aste pubbliche di tutti i paesi euro deboli ed euro non deboli. Sì, è vero tutto questo. Quindi, di fronte a tutto questo, conclusione, si può legittimamente sostenere che l'Italia ha fatto tutto quello che doveva e poteva, che a questo punto quindi l'agenzia di Reni non rompano le scatole? Ecco, io, e qui concludo perché non è il tema della giornata, dico che no, Non è vero, neanche per idea, neanche questo. E questo per appunto legare, in fondo, per dare il segno, il passo di una settimana che è stata attraversata dal disastro della Concordia, ma che mantiene vivi tutti invece i fondamentali di una crisi europea, di una crisi economica, che resta lì e ci accompagna. Bene, dalla Concordia, anzi restiamo sulla Concordia e parliamo di un altro aspetto, quello dei risarcimenti in vista. Alessandro Plateroti, questo accade invece giovedì a Focus Economia, ci ricorda che il diavolo sta nei dettagli. Come si dice, il diavolo è nei dettagli. I dettagli qua sono 8.000 parole che sono scritte dietro il biglietto della Costa Crociere. Quel biglietto vale come un contratto e quel contratto stabilisce che chiunque accetti di viaggiare su una nave della Costa Crociera deve sapere che il risarcimento massimo in caso di danni e persino di decesso sono 80.000 euro. È soltanto nel settore navale dove è fissato risarcimenti così bassi e dove le vittime di un disastro non hanno sostanzialmente la possibilità di rivalersi. Sempre nel biglietto della Costa Crociere, dietro c'è scritto che comprando il biglietto si rinuncia persino al diritto di fare causa per danni morali, per danni che vanno oltre quelli fisici e persino la class action. Nel biglietto e nel contratto marittimo, e questo è fissato da una convenzione che è stata firmata ad Atene nei primi anni 70, si stabilisce che alla società armatrice spetta il diritto di scegliere la sede legale dove discutere le cause. Nel caso della Costa Crociere è stata scelta Genova. Questo significa che o si accettano gli 80.000 euro o si deve ricercare di dimostrare un fatto. Tutta la partita si giocherà intorno a questo: dimostrare che la Costa Crociere o la sua controllante Carnival Cruises erano a conoscenza delle manovre spericolate del comandante / dei comandanti. Dimostrando che la società armatrice era consapevole, sarà possibile muovere le cause anche al di fuori di Genova. Per portarle dove? Ad esempio a Miami. A Miami, dove ha sede legale la Carnival Cruises, non c'è un limite ai risarcimenti danni. La società, mentre si cercano i dispersi, e sono ancora molti, si fanno i conti sull'impatto che questo disastro avrà sulla società. Allora sentiamo in questo servizio proprio il punto su questo aspetto. Circa 93 milioni di dollari. E questa è la prima quantificazione dei danni, quelli determinati dal non avere più a disposizione la nave, individuati da Costa Crociere dopo il naufragio della Concordia. Alla cifra si aggiungono ulteriori costi, derivanti dall'impatto sulle vendite future, oggi non ancora quantificabili. Poi c'è il valore della nave, assicurata dal broker Aon per oltre 400 milioni di euro e coperta da diverse compagnie, tra le quali Generali ed RSA, mentre sarà affidato ai club P&I, con lo Standard in prima fila, il pagamento dei danni sull'equipaggio, ai passeggeri e all'ambiente. Le coperture possono arrivare a 3 miliardi di dollari, ma esiste un altro danno da computare, quello che una simile tragedia arreca al mercato delle crociere, un comparto che nel 2010 ha portato in vacanza 5,5 milioni di europei, più 10% sul 2009, e ha visto transitare nei porti italiani 9,6 milioni di passeggeri nel 2010 e 11 milioni l'anno scorso. Gli agenti di viaggio temono per il settore un effetto 11 settembre, ma in realtà sperano che i clienti dimentichino presto la Costa Concordia. Raul De Forcade, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E non sarà facile dimenticare tutto questo. Dunque, prima di fermarci un momento, vi ricordo che alcuni dei principali temi dell'attualità di questa settimana sono anche l'oggetto del racconto dei giornalisti di Radio 24 all'interno dello spazio dedicato ai reportage. Per quanto riguarda Costa, il naufragio di cui abbiamo parlato a lungo, domani mattina alle 8:15 ancora un reportage da parte realizzato da Raffaella Calandra, ma anche oggi stesso invece alle 13 Alessandra Schepisi si occupa e ci racconta la settimana dei taxi, lo racconta da Roma, dove appunto i taxisti hanno in qualche modo rappresentato in maniera anche emblematica quello che poi è il tema, il pacchetto delle liberalizzazioni che ha tenuto occupato il governo per tutta questa settimana. Martedì 17 gennaio, il tema dei taxi, delle liberalizzazioni, come abbiamo detto, come ho detto poco fa, tra tutte le liberalizzazioni, quella, diciamo, che riguarda il sistema, il mercato dei taxi, è stata quella con un impatto mediatico più forte. Vi ricordo allora un intervento di martedì appunto scorso, il Loredano Bittarelli, presidente di Uri Taxi del 3570 a Roma, è ospite di 24 Mattino di Alessandro Milan. Ma senta, per concludere, Bittarelli, ma questa storia che voi minacciate sempre blocchi, ogni tanto si sente facciamo l'inferno, scendiamo, blocchiamo le strade, blocchiamo le città, sa che è nata anche la proposta meno taxi per tutti, c'è la contro sciopero al vostro? Sì, sì, ma tutte le volte che lo facessero, tutte le volte che hanno fatto queste proposte di contro meno taxi per tutti, sciopero dei consumatori, abbiamo lavorato di più, non so se sarà stato un caso, quindi a noi non ci interessa più di tanto, noi sappiamo di avere la ragione dalla parte nostra, perché non ci si fa più ad andare avanti e qui siamo considerati noi la categoria da colpire, non ci sta bene, ma altro che blocchi, a parte che fino adesso i blocchi non abbiamo fatto. Cosa minacciate? Ma, altro che blocchi, cosa vuol dire? Cosa volete? Cosa pensate? Ma secondo lei il popolo affamato che cosa fa? No, me lo dica lei, cosa fa? No, me lo dica lei, che ha studiato più di me. Io no, perché in passato scene di violenza si sono viste. Ma tutta questa violenza non mi è sembrato, e spero che non ce ne sia, però è chiaro, non ci faremo neanche mangiare sopra la testa da nessuno, perché nel piatto nostro già è difficile che ci mangiamo noi, non riusciamo a fatica. Beh, anche dei giorni scorsi qualche insulto c'è stato ai politici, a Palazzo Chigi. Ma insulti, ora mi dispiace, io sono stato, quando quella storia di Cicchito, sono stato il primo io a chiedere scusa a nome della categoria, sono stato il primo io a andare sotto a Palazzo Chigi dicendo che state facendo, anzi Cicchito era andato lì per farci ottenere l'incontro, tra l'altro con il governo, che non riuscivamo a ottenere, l'hanno insultato, ma non ce l'avevano con lui personalmente, era il politico, ce l'avevano con un sistema che il non sistema. Condividono, non è possibile, un governo di tutti i professori, di persone che hanno sempre preso 500.000 euro all'anno di stipendio più tutti i vari benefit di punto in bianco, senza neanche essere stato votato degli italiani, va a decidere di ammazzare la categoria dei tassisti. E noi non ci facciamo ammazzare, mi dispiace, ma faremo tutto il possibile per salvaguardare le nostre ragioni. Licenze plurime, extraterritorialità, le norme sui taxi in mano all'authority, a un'autorità. Questo è, diciamo, l'ultimo aggiornamento in materia, ma intanto i professori, anzi il professore che viene citato nell'intervista da Bittarelli, proprio nelle ore in cui Bittarelli parlava qui a Radio 24, martedì era a Londra per un incontro previsto al 10 di Downing Street con il primo ministro britannico James Cameron. Sentiamolo. Le tessere del mosaico si vanno ricomponendo. Mario Monti non nasconde un certo ottimismo all'indomani del suo viaggio a Londra con il premier inglese David Cameron, con gli investitori della City e con gli studenti della London School of Economics. Monti ha giocato la carta della sfida europea, della necessità che l'Europa ha di avere a bordo gli inglesi nella fase 2 su crescita e mercato interno. Già nel prossimo Consiglio europeo del 30 gennaio hanno convenuto Monti e Cameron, una volta archiviato il fiscal compact tanto caro ai tedeschi, si dovrà parlare di crescita, occupazione, liberalizzazioni e competitività. Non si può dire che ieri non siano mancate certe insidie nella giornata londinese, come quando un giornalista ha chiesto a Cameron quali suggerimenti avesse in serbo per la Merkel. Il premier inglese si è rivolto allora verso Monti dicendo «You first», e il presidente del Consiglio ha sorriso «Con piacere, primo ministro», ma lasciando cadere di fatto la domanda e facendo tornare in mente gli eloquenti ammiccamenti di Sarkozy e Merkel alle domande sull'affidabilità di Berlusconi, erano solo poche settimane fa a Bruxelles. Gerardo Perosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. David Cameron, non James Cameron, come ho detto erroneamente nel lancio, ma intanto in Italia. Lunedì 16 gennaio, Nicola Cosentino ha da poco incassato il no del Parlamento al suo arresto, ma non sfugge allo scherzo ordito dalla zanzara, una telefonata da un falso Bossi. Pronto? Onorevole Cosentino? Sì. Buonasera alla segreteria dell'onorevole Bossi, posso passarglielo? L'onorevole vuole sì. parlarle? Sì. Grazie. Sì. Pronto, Nicola? Nicola, pronto, ciao, come stai? Buonasera, bene, bene. E volevo salutarti, volevo dirti che questa telefonata deve rimanere tra noi, perché sì, sono contento alla fine di come è andato il voto. Adesso c'è il problema con Maroni, con Bobo. Io non finirò mai di ringraziarti, non finirò mai di ringraziarti, perché sei stato decisivo per evitare una zozzeria, insomma, che stavano ulteriormente portando su di me, ma in particolare sulla PDL Campania. Ti sono grato per la vita, questo lo devi sapere. Adesso abbiamo il problema con Maroni, che anche lì da quel Fazio lì vuole rompere tutto. Meno male che non hai ringraziato la Lega. No, e lo faccio perché era inopportuno farlo per dare adito. Io ho ringraziato il Parlamento senza ringraziare nessuno in particolare pubblicamente, ma io ho detto anche al Presidente Berlusconi, insomma, che insomma, sono contentissimo e ti ringrazio per la vita. Maroni, già Maroni nel fine settimana era da Fazio, denuncia una fatua contro di lui, ma abilmente dirotta la vicenda lontano dal leader, da Bossi, che anzi invita a Varese, casa sua, casa di Maroni, per dimostrare l'unità del movimento. L'incontro riparatore avviene allora mercoledì a Varese, come detto, trava pensiero di Prammatica, abbraccio Bossi Maroni, che a fine settimana è di nuovo in sella. Ma quale spaccatura della Lega, dice l'ex ministro degli interni, c'è stata un'operazione contro di me rispedita al mittente, c'è stato un grande abbraccio, continua Maroni, oltre a una grande manifestazione di affetto da parte delle migliaia di militanti della Lega nei confronti e verso Bossi. Insomma, un Maroni che sottolinea come è stata una grande emozione, che ci ha rincuorato tutti. Maroni, il pragmatico, vince questo round. Punto e a capo. L'attentato compiuto da un soldato afghano contro i militari francesi all'interno di una loro base in Afghanistan ha provocato 4 morti e una quindicina di feriti, 8 dei quali sono gravi. Questo il bilancio diffuso dal ministro della difesa di Parigi. Sentiamo quale altra reazione ha prodotto nel servizio di Alberto Negri. L'avamposto francese della Task Force Lafayette è un nido d'aquila arroccato sul fianco di una montagna rugosa, una pietraia a quota 1500 metri che si raggiunge soltanto in elicottero. Sotto c'è il villaggio di Tagab, nella valle di Capisa. È qui che un soldato afghano ha fulminato 4 militari francesi, un episodio che ha spinto il presidente Sarkozy, in piena campagna elettorale, a sospendere le operazioni e a valutare anche l'eventualità di un ritiro anticipato dall'Afghanistan. Capisa è una di quelle vallate remote sorvolate da un cielo cobalto che nessuno è mai riuscito davvero a conquistare. Arrivai qui nel marzo del 2010 e da allora poco è davvero cambiato. Qui, come in tutto l'Afghanistan, le insidie sono quotidiane per tutti i contingenti militari, anche per il nostro nella provincia di Herat. Forse anche di questo si parlerà la prossima settimana, quando il presidente afghano Karzai verrà in visita a Roma. Alberto Negri, dunque, inviato tanti anni di attività tra l'Asia centrale e l'Iran, che ci racconta l'attualità, gli ultimi eventi dall'Afghanistan. Intanto, invece, negli Stati Uniti accade, come dire, un vero e proprio litigio con i voti, che riguarda peraltro il Partito Repubblicano in questo caso. Dopo aver proclamato la vittoria di Romney il 3 gennaio scorso nell'Iowa, erano solo 8 voti rispetto allo sfidante di origine trentina Rick Santorum, il partito fa dietro front e annuncia: ci siamo sbagliati. Sono primarie vere queste che stiamo testimoniando in America, non sono costruite dall'alto del partito, si combattono su un'arena e il personaggio politico che ha i numeri e che riesce a contrastare gli avversari emerge grazie alle sue capacità del momento, non grazie a maneggiamenti sui voti. È andato abbastanza bene Ron Paul. Paul sta cercando di difendere la sua terza posizione contro Santorum, quindi abbiamo visto un po' tutti i candidati beccarsi fra di loro. Ed è un dibattito questo, tra l'altro, che si è aperto dopo una giornata con un numero straordinario di notizie che hanno cambiato completamente la dinamica di questa corsa elettorale. La prima, Rick Perry, il governatore del Texas, il grande gaffeur, si è ritirato, ci mancherà, devo dire, perché nel dibattito di ieri sera chissà che cosa avrebbe tirato fuori, quindi in qualche modo era un po' un divertimento. L'altra notizia della giornata, Romney non ha vinto l'Iowa, ha vinto l'Iowa Rick Santorum per una differenza di 34 voti, è il conteggio finale, ufficiale, dunque ecco che Romney era in difficoltà anche per quest'altra notizia, perché si era vantato di essere stato il primo candidato repubblicano a vincere i primi due stati, non era mai successo prima nella storia, ecco, ora non è più così, ha vinto Santorum e dunque Santorum in qualche modo può rivendicare una vittoria che nessuno degli altri candidati a parte Romney ancora può rivendicare. È accaduto sabato 14 gennaio, la notizia però è arrivata appunto all'inizio di questa settimana, è accaduto a Juba, capitale del Sud Sudan, il 54esimo stato africano, il paese che vi abbiamo raccontato nei mesi di ottobre e di novembre, quando emergeva appunto come neonato stato nella speranza che la situazione, la sicurezza e i rapporti con il Sudan, con Khartoum, potessero davvero marciare verso una pacificazione. Bene, le notizie non sono buone, una in particolare riguarda anche noi, un medico, si chiamava Alemayo Seifu, medico etiope, direttore di AMREF del Sud Sudan, è stato colpito a morte, probabilmente nell'ambito di una rapina. L'avevamo incontrato, ci aveva raccontato il suo paese, ci aveva aiutato anche a muoverci all'interno di quella non facilissima situazione che è Juba. Ecco, lui etiope, lascia una moglie, due ragazzi adolescenti, uno dei medici che lavorano appunto nel mondo cercando di migliorare le cose, purtroppo fermato da due balordi, pare, sulla soglia di casa a Juba. Bene, abbiamo ancora una notizia per la pagina internazionale. Ancora un saluto da Gigi Donelli, da Valeria Bernardi in regia. Vi avevo detto, abbiamo ancora almeno una notizia dal panorama internazionale, che è quella che riguarda l'Ungheria. Mercoledì il premier Orban era atteso e si è presentato a Strasburgo, era atteso per rispondere alle preoccupazioni, al monito, ma anche alle iniziative assunte a livello europeo, in particolare dalla Commissione. Allora, following a first technical analysis, the Commission urged the authorities in Hungary to modify the draft clause. Unfortunately, il Presidente della Commissione Barroso ha preceduto l'intervento di Viktor Orban, ha ribadito la richiesta di intervenire su quella Costituzione ungherese varata il 1 gennaio di quest'anno che viene appunto guardata con grande scetticismo, accusata in alcuni casi di essere una struttura che porta una deriva autoritaria e in questo intervento dunque Barroso ha dato di fatto appuntamento a Viktor Orban per la prossima settimana dove si vedranno faccia a faccia, ha chiesto una serie di interventi e poi ha ribadito un concetto che è caro all'Unione, a molta parte del Parlamento, cioè il principio per cui l'Unione Europea non è solo un insieme di stati, ma è anche un luogo di una certa particolare cultura democratica. We have the highest regard for the Hungarian people. Conclusione del Presidente della Commissione europea Barroso, abbiamo il massimo rispetto per gli ungheresi, per il popolo ungherese che viceversa si sente un bersaglio dell'Europa, molti di loro in questa fase e poi così invitando nuovamente il Premier a riflettere, a cambiare, a intervenire sul percorso invece che ha intrapreso, ha poi dato la parola ad Orban che ha appunto portato avanti la sua difesa. Una settimana in cui il tema dell'Ungheria è stato ricorrente. Io vi ricordo soltanto, prima di voltare pagine, che noi continuiamo il racconto sull'Ungheria, una serie di reportage raccolti tra l'altro sul nostro sito www.radio24.it. un'attenzione che dedichiamo a un paese dell'Europa centrale, 10 milioni di abitanti, ma probabilmente più importante, e non solo per l'Ungheria stessa, per l'edificazione e il mantenimento dell'Unione Europea. Punto e a capo. Dall'Ungheria invece torniamo in Italia, anzi torniamo a Milano, proprio da dove vi parlo, da dove sono i nostri studi, che come sapete sono a Milano, ma anche a Roma. Ecco, per i milanesi è stata la settimana dell'esordio della famosa Area C, quindi nuove modalità per rendere più vivibile la città, per comprimere, ridurre il traffico, una tassa per tutti, 5 euro al giorno, un'infinità di polemiche. Ecco, alla Zanzara Giuseppe Cruciani ne parla con uno storico ex sindaco di Milano, Albertini, che di sicuro, come dire, non può essere accusato di propendere per l'iniziativa, o meglio per le politiche generali del sindaco Pisapia. Sentiamolo. Mi dica la verità, questa cosa di Pisapia, della chiusura con la cosiddetta Area C, è meglio della cosa della Moratti? Beh, l'Ecopass l'Ecopass l'ho sempre osteggiato. Perché dunque, meglio l'Area C dell'Ecopass? Diciamo che è concettualmente più intelligente. Sì, diciamo di sì, perché riguarda la congestione, che è un argomento che è diciamo gestibile con un intervento di carattere fiscale, cioè facendo pagare un certo comportamento che si vuole dissuadere e favorendo un altro, quello dell'uso del mezzo pubblico, che si vuole incentivare. Però è sbagliato sotto due profili. Il primo perché? È che, come per la sosta a pagamento, i residenti nel quartiere non pagano per mettere l'auto davanti a casa, mi sembra sballato che i cittadini milanesi paghino per circolare nella loro città. Quindi, cioè, i residenti, ma non solo quelli nella cerchia dei bastioni, i cittadini milanesi che hanno l'auto immatricolata nel comune di Milano. Quello è il criterio. Appunto, è sbagliato. Cioè, come la sosta a pagamento. Se inquinano, pagano. Ma non c'entra l'inquinamento, è una congestion. Fortunatamente il criterio appropriato, come a Londra, non è l'inquinamento, hanno fatto un ibrido, ma per l'eredità della situazione precedente. Sì. Si può dissuadere l'uso dell'auto perché ingombra, perché c'è un... E allora, seguendo questo criterio, invece che applicare una congestion charge, come viene chiamata, cosa devono fare? Dovrebbero, come nelle nostre intenzioni originarie, quando abbiamo organizzato il sistema che adesso è in funzione, quello per cui si possono diciamo computerizzare i varchi e tenere sotto controllo gli accessi, fare pagare in relazione alla domanda, cioè un road pricing, dare un valore di mercato alle strade. Faccio un esempio: ci sono momenti in cui le auto sono più numerose dello spazio delle strade e le ore di punta, lì si paga di e più. Si paga. Momenti in cui sono vuote e non si paga. Come in qualsiasi altra situazione, la domanda e l'offerta condizionano. Questa è la terza del via di Albertini. È la via che si. Vabbè, che comunque. Si il titolo è meglio Pisapia della Moratti. No, su questo non su questo, non su, facciamo su, giudizi questo sulle persone, no, non né persone, sulla linea politica. No, ho studiato dei gesuiti. Concede parum, nega sepe, distingue sempre. Voi mi fate dire una cosa che non ho detto. Meglio l'Area C della cosa, però. Meglio il provvedimento congestion charge che sarebbe l'Area C della puttanata dell'Ecopass. Cruciani e Parenzo, la Zanzara in diretta in quella circostanza da Strasburgo. Intanto, a proposito di Milano, insomma, le polemiche ovviamente vanno avanti, i numeri confermano una riduzione evidente, secca. L'ultimo dato ufficiale giovedì, riduzione del traffico del 38,4% di ingressi nell'area C. Questo per quanto riguarda un capitolo su quale sicuramente torneremo anche in futuro. Bene, ci avviamo alla conclusione. Siamo da un lato, vi ricordo i nostri appuntamenti dedicati allo sport, all'ultima giornata di andata per il campionato di Serie A, quindi gli appuntamenti nel fine settimana con il nostro Carlo Genta, dall'altro tutti i nostri appuntamenti dedicati al cinema, agli spettacoli e, come accade sempre in questo programma, Marta Cagnola ci porta un suo contributo, ci parla oggi di un esordio in sala da record. Si tratta di Benvenuti al Nord, il film di Luca Miniero, il sequel del fortunatissimo Benvenuti al Sud, ha incassato nella prima giornata di mercoledì quasi 1,5 milioni di euro, una cifra tra le più alte mai raggiunte in Italia da un film nel primo giorno di programmazione in sala. Allora sentiamo il regista Luca Miniero al microfono di Marta Cagnola. In qualche modo ci volevamo raccontare un'altra parte dell'Italia, appunto il Nord, quindi questo è un sequel, certo, ma in realtà sono due film in uno. È come se Benvenuti al Nord approfondisse Benvenuti al Sud. Io penso che Benvenuti al Nord sia più godibile se uno ha visto l'altro, e molti lo hanno visto. È per questo che ho lavorato in questo modo sulla sceneggiatura, cioè portando dei riferimenti proprio all'altro film, quindi veramente un sequel classico. È un'operazione sicuramente anche narrativa, quindi non soltanto commerciale. E poi è molto divertente per un napoletano andare al Nord, io lo so per la mia esperienza, è molto divertente ridere dei tic che ci hanno i settentrionali. E però il film vuole mostrare, oltre questi tic, qualcosa che in effetti i settentrionali nemmeno sanno di avere: una capacità di dare un'opportunità a tutti, un'accoglienza. Sono i primi a parlare male della loro città, come dice appunto una battuta di Bisio nel film, i milanesi e quindi in qualche modo i settentrionali, però poi in realtà non si rendono conto, hanno l'ansia di fuggire per il weekend, ma non si rendono conto che invece la città, soprattutto per un meridionale, ti fa crescere. Infatti in un sacco di posti Bisio l'hai portato tu. Assolutamente sì, perché poi naturalmente chi viene da fuori ha uno sguardo anche più magnetico, più attento sulla città. Se voi mi chiedete di Napoli, da città da dove vengo, cose bellissime non so neanche in che strada stiano. E questo è Benvenuti al Nord, il regista Luca Miniero al microfono di Marta Cagnola, l'ultimo contributo di questo nostro appuntamento. Ora vi ricordo, subito dopo GR24, invece l'appuntamento con l'Europa con Federico Taddia. Non mi resta che ringraziare Valeria Bernardi in regia. Da parte mia un saluto a tutti voi e naturalmente un ottimo fine settimana, magari in compagnia di Radio 24. A presto. We'll be right back.